Per quanto riguarda l'indipendenza delle agenzie di rating, credo che sia molto sinceramente, brutalmente, un falso problema. Il problema è che poi ci sia, il fatto che poi ci siano degli interessi sul mercato che vadano in una direzione quale quella lei ricordata, dico, è un fatto, appunto, non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima. Cioè, secondo lei c'è un interesse di una finanza anglosassone, più o meno anglosassone, nell'attaccare l'Italia e andare a comprare a prezzi di saldo? C'è sicuramente una parte del mercato che punta a indebolire alcuni emittenti sovrani in questo momento nell'area euro. E non è solo questa, ci sono anche correnti che hanno fatto correnti di pensiero e anche di investimento che hanno altre opzioni, però non si può negare che esista questo tipo di parte molto attiva. Ma lei, insomma, dove arriva? Dall'America, dalla Gran Bretagna? Ma guardi, oggi è difficile mettere una bandiera, credo sia proprio sbagliato mettere una bandiera sopra queste, perché i fondi, ad esempio, i fondi hedge, tanto per parlare di un'altra categoria recuperata, in realtà se poi andiamo a vedere, gestiscono fondi che magari vengono dagli stessi paesi che sono sotto attacco. Quindi a questo punto, francamente, io ho un po' di difficoltà a mettere la bandiera del nazionalismo finanziario. Però lei dice c'è un interesse a livello internazionale di una finanza, diciamo, chiamiamola così, di matrice anglosassone, nell'attaccare l'Italia ed eventualmente comprare o pezzi del paese a prezzi di saldo? Non ho detto matrice anglosassone, no, ho detto che c'è un pezzo di parte del mercato, una parte del mercato, di investitori, che ha appuntato a come opzione quella di indebolimento di alcuni emittenti sovrani e sperando anche poi di approfittare di eventuali conseguenze di questi indebolimenti.